la versione di Oscar Giannino. This is the end, beautiful friend. This is the end. No, oggi la faccio sentire un po' più a lungo questo This is the End, visto che tante volte mi avete detto no, l'ottimismo. Va bene, allora, cari ascoltatori, inizia la settimana, per chi non mi ha sentito già stamattina con Alessandro Milano, attenti noi due, buon lunedì 5 dicembre, siamo alle 16.31 primi e 32 secondi, quindi diretta allo studio di Milano, vi saluta e vi ringrazia Oscar Giannino. Come è ovvio, oltre a ricordarvi l'indirizzo, la versione di Oscar che ho cercato di 24.it, la trasmissione di oggi è dedicata al post referendum, quindi chiamate pure all'800240024 per dirci qualunque vostra opinione sul risultato, opinioni, cosa deve succedere, cosa vi aspettate, eccetera eccetera. Io vi dico subito che chiunque fosse interessato, vista che è finita la par condicio, come sapete, per par condicio noi conduttori qui a Radio 24 non abbiamo dichiarato, siamo stati attentissimi a non dire come la pensavamo, abbiamo fatto il nostro mestiere. Io personalmente ho fatto incazzare nell'intervista a Renzi, ho fatto domande un po' brutali anche a Salvini, eccetera eccetera. Però detto tutto questo, chi fosse interessato a conoscere nel dettaglio il mio commento sul giorno dopo, trovate una lunga considerazione su Facebook. Quello che sapete fino a questo momento di sicuro è che la tanto attesa, preannunciata tempesta dei mercati sull'Italia non c'è stata, non c'è proprio, nel senso che il FTSE MIB adesso è a meno 0 e qualche cosa, 0,2 e così via, con listini europei che sono tutti in segno positivo, lo erano di più anche all'inizio mattinata. Diciamo che sì, i titoli bancari italiani, ma ballano per problemi loro, per così dire, e quindi qui anche lo spread non si è allontanato da soglie assolutamente al di sotto dei massimi che erano stati toccati prima del voto, quindi è stato nella soglia dei 167, 168, 166. Che cosa vuol dire questo? Secondo me è molto semplice, scusate. Io trovo che sia stato irresponsabile impiccare i risultati del referendum, le vicende del settore bancario. Abbiamo perso 6 mesi per gli aumenti di capitale, il risanamento e il processo di liberazione da parte dell'eccesso di crediti deteriorati di banche come MPS, l'aumento di capitale che saranno 13 miliardi, vedremo di Unicredit e tante altre vicende del settore bancario. Abbiamo perso 6 mesi impiccando il referendum. Secondo me è stata una prova di responsabilità. Che cosa è avvenuto? È avvenuto che a furia di ripetere ai mercati fate bene a bastonare se gli italiani non scelgono una versione obbligata, cioè sì, i mercati hanno incorporato prima l'attesa di rendimenti decrescenti, e io questo credo che sia un atto di responsabilità, però questa è un'opinione mia personale per quello che riguarda i mercati. Di sicuro la personalizzazione del referendum ha portato male, io credo che sia stato un errore sin dall'inizio, un errore grave anche perché viziato da due altri errori. Primo, qui c'è una valutazione, per così dire, che mi stupisce, ma la valutazione è questa, e cioè che tutto sommato sia un win-win anche per il Presidente del Consiglio e il suo partito avere perso, perché tanto si dice il 40%, che cosa volete che non sia se non un patrimonio? Perché alla fine, siccome il fronte del no è diviso, è assolutamente irriducibile a un'unica proposta di coalizione che possa governare l'Italia, beh, cari signori, potete fare anche adesso una legge elettorale tutta proporzionale, ma alla fine il problema si risolve a chi tra voi darà sostegno comunque a un governo guidato dal capo della più forte tra le minoranze, cioè quella del PD, che loro contano al 40%. Io non credo che quel 40% sia il 40% del PD, ma al di là di questo ragionamento secondo me è sbagliato. È sbagliato perché significa assumere il punto di vista che l'unico governo possibile in Italia per un voto politico alle elezioni politiche è quello guidato dall'attuale segretario del PD. È così vero? Questa è una presunzione che si fonda sul fatto che i tronconi maggiori del no in realtà non vogliono governare, vogliono solo raccogliere voti per protesta e non sarebbero mai capaci di stilare un compromesso di governo. È così vero? Chi l'ha detto? Perché? Io constato una cosa che non mi piace, ma non posso fare a meno di constatarla, che in questi anni ha preso molto piede tra tutti voi, tra gli italiani, si vede sui social, non solo le lettere che scrivete, degli sms di critica che mi mandate, gli argomenti sovranisti, quelli che dicono qui c'è un problema che riguarda il no da dire all'euro, all'Europa, bisogna rivedere la politica di libero commercio, mettiamo i dazi, chiudiamo le frontiere, c'è bisogno di uno Stato forte. Queste cose qua, che sono poi il motivo di fondo unito a ciò che Renzi non ha voluto vedere in questi anni, cioè quelli che stanno peggio in Italia e a cui non sono andati tanti bonus del suo governo, sono la vera spiegazione del fatto che poi gli italiani, come tanti altri corpi elettorali, l'abbiamo visto in Gran Bretagna, l'abbiamo visto, non votano come vogliono le élite, i mercati, votano con il loro portafoglio, la loro pancia, la loro testa. Ecco, che cosa impedisce di credere che una piattaforma sovranista che cambi marcia sull'euro, l'Europa, possa davvero non rappresentare qualche cosa che sta dietro l'angolo in Italia alle prossime elezioni politiche? Io non sono così sicuro, può non piacermi, ma non vedo perché si debba scartare e pensare che Renzi è comunque quello destinato a governare sulla base di quello che ha fatto in questi 3 anni. Può essere che io mi sbagli, tuttavia, e non è certo la mia opinione che deve contare. Quello che mi interessa oggi è presentarvi 2 punti di vista molto diversi, dichiaratamente diversi, per condurre insieme a loro un'analisi dal loro punto di vista di quello che è successo, di quello che potrà avvenire. Quello che potrà avvenire quanto alla cronaca politica, fine della mia breve introduzione, e questo sapete che c'è stato già un colloquio di più di un'ora di stamattina al Quirinale tra il Presidente del Consiglio e il Capo dello Stato Mattarella. Il Capo dello Stato Mattarella, oltre a sottolineare l'importanza della partecipazione, il grande significato democratico della partecipazione e della scelta degli italiani, ha sottolineato che poi adesso ci sono delle incombenze, degli obblighi istituzionali a cui far fronte. È ovvio che si parla innanzitutto della legge di bilancio 2017, il cui iter è appena cominciato in realtà, verso il quale oggi l'Eurogruppo ha detto: guardate che siete fuori, dovreste rafforzarla, sia pur temperando questa richiesta dal fatto che hanno capito chi ha vinto e che è difficile aspettarselo. Il problema sarà a questo punto se mandare in Parlamento il Presidente del Consiglio, che tuttavia dice le mie dimissioni non si rimettono in discussione, io non sono disponibile a continuare a congelare il mio mandato fino all'approvazione della legge di bilancio, a quanto si legge sulle agenzie come indiscrezioni, oppure se fare un passaggio parlamentare e poi subito procedere a un governo di scopo. Girano diverse ipotesi, quella del Presidente del Senato Grasso, quella a cui io credo meno, di una presidenza tecnica. Padoan non lo credo, perché non vedo che nel Parlamento italiano possa nemmeno il PD oggi, la maggioranza attuale, dare un voto a un governo guidato da un tecnico. Un'altra voce che gira è Delrio, ma insomma forse il Presidente del Senato Grasso potrebbe avere, in vista della questione fondamentale, cioè la legge elettorale, più frecce al suo arco. Vedremo, questa è la cronaca politica, ma qui il problema è ripartire da quello che è successo, perché è successo e che cosa vuol dire. Un cambio di fase oppure è semplicemente un buco in una ruota, ma Renzi resta alla guida del PD e alle politiche avrà la sua rivincita rispetto a opposizioni divise con progetti non traducibili in una formula di governo? Ecco, partiamo di qua. Allora, abbiamo 2 ospiti, ripeto, 2 punti di vista diverse, e con noi Luca Telese. Buon pomeriggio, Luca. Ci sei, Luca? Eccomi, ciao, buongiorno. Che oggi sulla Verità ha scritto un'analisi, i 4 errori capitali che spiegano la disfatta. E poi è con noi anche Umberto Minopoli, che è presidente di Sviluppo Campania. Non c'è ancora, adesso quando si collega, perché l'avevo visto qua, no, arriverà dopo. Comunque c'è anche Umberto Minopoli, renzianissimo, che oggi dice al contrario: la battaglia è solo all'inizio, va bene, ne abbiamo persa una, ma la guerra continua, quindi liberati anche del partito, ma vedrai che ce la facciamo. E questo Umberto Minopoli dall'altra parte. Cominciamo con i 4 errori capitali di Luca Telese. Tu che dici? Eccoci innanzitutto qua. È azzoppato, ferito a morte o una ferita superficiale, Renzi, come politico? Ma secondo me è ferito a morte, anche se proverà a continuare a combattere. Il primo problema grave è che capisco che in Italia la parola non conti niente, ma Renzi ha posto le condizioni del suo capestro, è lui che si è appeso a una corda, è lui che ha detto: torno a fare il lavoro di prima, smetto con la politica. Va bene che siamo un sistema compiacente, però un premier che dice una cosa così in nessun paese del mondo ha più cittadinanza, gira e va in giro a fare conferenze. Ma detto questo, sappiamo che in Italia può essere non rilevante. Io credo che il problema vero di Renzi sia l'entità della sconfitta. I suoi 4 errori se vuoi che te li elenchi, il primo arroganza, gliel'hanno detto tutti, gliel'hanno detto in tutti i modi, gli ha detto Oscar Farinetti che è il più intelligente del suo entourage, con quella famosa frase, torniamo ad essere simpatici, la sera stessa stavamo lì a gridare alla Leopolda nel party dei miliardari della Leopolda a spese nostre, tutti con stipendi da 250.000 euro pagati dallo Stato, erano lì a gridare fuori fuori al povero Bersani. E quindi l'arroganza, andare la sera stessa da Minoli e dire sono cattivo, sono arrogante, sono impulsivo, altrimenti non le direi questa cosa. Questo carattere, nel momento in cui lui, tutti gli spiegavano che doveva unire, ha diviso e ha ristretto il campo del suo partito. Quindi Renzi, non occasionalmente, ma nell'occasione della sua vita, si è rivelato un leader che divide e non un leader che unisce. Guarda che loro dicono che sono tornati alle europee al 40%, non ristretti. Vabbè, fagli sognare, poveretti. Dai, e Minopoli, non lo so, voglio sentire Minopoli cosa pensa dell'elogio della clientela fatto ad Agropoli, dove hanno perso col 70%. Voglio sentire cosa dice Minopoli della sua Napoli, dove il 75% gli ha detto vattene a casa, di Salerno, dove c'era il capo delle clientele, che si è preso un ceffone che non aveva mai avuto letteralmente in 30 anni di onorate battaglie politiche. Cioè, adesso mi mandano dalla regia l'avviso che Minopoli non potrà più, è subentrato un impegno. Vabbè, oggi ho faticato tantissimo a trovare Renzi. Su questo, che so che in Italia il meridione da una parte della stampa non esiste, ma intanto il prodotto Renzi in metà del paese è un prodotto che non si vende. Potrebbe fare il leader della Lega Nord, forse, se lo vogliono. Poi, In Sardegna, nella mia Cagliari, il record assoluto, oltre il 75%, vattene a casa. In Sicilia, in tutte le province, sopra il 70%. In Campania, in tutte le province, 70% no. Io capisco, uno dice, ma fai il leader nazionale, ma dove? Già Roma è meridione per lui e lo sapevamo, erano 2 anni e si diceva Renzi non ha capito il sud. Domanda, può essere un leader razionale nazionale uno che non ha capito, non sa che cos'è il sud, quando ci mette piede fa gli show e quando si arrabbia fa una cosa tipo a Taranto, ai bambini non gli do i soldi perché Emiliano mi sta sulle palle, scusate, questo è quello che è accaduto, Sì. Secondo errore capitale, grave, personalizzare, gliel'hanno detto tutti. Se lui non personalizzava sarebbe finita con il 90% dei sì e il 30% 25 di quelli che votavano. Punto, no? Chiaro, semplice. Lui vinceva, aveva lo strumento di abolizione del Senato, gli stava tanto a cuore, stringeva i cordoni, centralizzava tutto, era il capo di tutto. Invece è voluto mettersi col cazzo al collo sopra uno sgabelletto pericolante, essendo padrone di tutti, e gridare venite, venite, sembra un film di Tarantino. Non è un leader che governa, capito? Non è Berlusconi, non è Prodi, cioè è una cosa senza precedenti. Questo è errore capitale, no? Terzo errore veramente incredibile, e ha fatto una saturazione di sé, di un messaggio banale, semplificato, che è andato ovunque, neanche nel forno a microonde accendevi e trovavi Renzi. Ma qual era il messaggio? Politici, via, via, cancelliamo i politici, mandiamoli a fanculo. Cioè ha fatto un messaggio grillismo più grossolano, però. E secondo me due cose. Uno, fra l'originale e una copia, vale sempre l'originale. Sono d'accordo. Le Finterland non le compra nessuno. Uno vuole le Timberland, sono più fighe, sono più trendy, quei ragazzini. Cioè, se ti metti a fare l'anti-euro, forse Borghi e Bagnai ti battono, perché sono anni. Aspetta, ti distruggono, perché tu hai fatto una serie di contorsioni da matto, se entriamo in quel filone. Prima intervista al Sole 24 Ore, il giorno del voto in Grecia, Tsipras, i debiti si pagano, vergognati, noi siamo l'Italia che paga i debiti. Poi regalo la maglia alla Merkel, no? Di Don Mario Gomes, la nostra Fiorentina che ci fa parlare al mondo, e sei, non dico subordinato, ma un compagno, un paggetto della Merkel. Poi improvvisamente a 10 giorni al voto diventi ribelle, via le bandiere all'Europa, ma cambi 47 articoli della Costituzione e non togli quello del pareggio del bilancio. Che messaggio è arrivato alla gente? Questo è un cazzaro, questo è il messaggio, come dire, semplice, che è arrivato e direi non molto lontano dalla realtà, diciamo. E Quarto errore veramente grave, ma quella poteva essere una scommessa però, lui dice l'Italia è fusa, non è più destra-sinistra, non è più sindacati, non ci sono più corpi intermedi, c'è qualcuno che mi aiuta, ci sono i miei testimonial, ci sono Santoro e Briatore, è tutto fuso, io parlo alla pancia del paese e via. Le culture politiche del Novecento non ci sono più, non ci sono più le identità, non ci sono più le associazioni e posso permettermi io di sinistra, teoricamente, di combattere contemporaneamente contro l'ARPI, contro l'AMPI, contro l'ARCI e contro la CGIL. E beh, questa cosa, se vedete lo sganassone, erroneamente alcune cartine gli danno, lo danno vincente in Toscana ed Emilia Romagna, invece ha vinto in una piccola parte delle province della Toscana, anche se quella più importante è di Firenze, ma ha perso tutta la dorsale adriatica, ha perso rovinosamente a Carrara 73%, ha perso a Livorno 57%, ha perso ovunque tranne su 107 province italiane, mi pare che abbia vinto in 11 province, ma uno è l'Austria perché è l'Alto Adige, e credo gli regalavamo 4 senatori, soldi per tutta la vita. Beh, se lì, non votavano i tedeschi, effetti, no? Questa cosa prendi e porta a casa. Allora, gli unici che se la sono bevuta, l'Alto Adige. Ti fermo perché abbiamo un minuto di traffico, poi torniamo con te e con i nostri ascoltatori. Guardate che, ripeto, non è una finta. La versione di Oscar. Eccoci qui tornati e con noi Luca Tellese. Beh, avete sentito la sintesi del suo commento che trovate per esteso per una pagina intera sulla Verità oggi di Belpietro. Quattro errori capitali da parte di Renzi. L'arroganza, la drammatizzazione, il messaggio giusto al posto sbagliato, il disprezzo verso tutti quelli che venivano definiti accozzaglia, no? Quelli che poi... erano anche pezzi fondamentali della storia della sinistra, insomma tutte queste cose qua. Però tu hai detto, Luca, che lo sei riferito a morte, e lo sai che loro dicono ma intanto gli altri non governeranno mai, sono divisi su tutto. Io la penso un po' diversamente, ma non perché questo mi piaccia, ma però secondo me è un errore credere di essere l'unico sulla scena politica che possa essere votato alle politiche come il Presidente del Consiglio italiano per effetto di una legge che sarà proporzionale e così via. Cioè non vedo perché su alcune cose di fondo davvero si possa escludere che Salvini, Grillo eccetera eccetera non possano trovare una base di collaborazione, però mi rendo conto che è difficile, però io non lo escludo, non vedo perché dovrebbero fare questo favore a Renzi. Tu che pensi? Con Renzi? Pronto? Sì, mi senti? Cioè, secondo te Salvini e Grillo vanno a collaborare con Renzi? No, il contrario. No. Secondo me è Renzi che sbaglia a pensare che solo lui può essere presidente di un consiglio, perché altrimenti Salvini, Grillo, eccetera, non collaboreranno mai tra loro, non avranno mai voti sommati per fare un governo. Questo io non lo credo possibile. È un ragionamento... Quella è una partita che viene dopo. Il problema è tu hai delineato molto bene nella parte in cui non ero collegato il piano dei renziani. Ci mettiamo un premier tecnico da rosolare a fuoco lento, ci rigeneriamo in un anno e poi ci presentiamo come quelli che sono i titolari della minoranza relativa. Esatto. Questo piano è morto perché il patto, l'ultimo patto estremo di quelli che l'hanno votato, cioè gli anziani del PD dell'Emilia Romagna e della Toscana, era fondato su una, come dire, un lodo. Il lodo era: io sono quello che vi faccio vincere, io sono la carrozza che vi trasforma da zucche in principi. E questo lodo è morto col 40%, col 49 potevi farcela, cioè col 48, col 45. Lui sta al 40,03, ha preso il 25% dei voti della sinistra, quindi sta sotto Bersani, ci ha sommato quelli che hanno votato la lista Monti, diciamo il 9%, e poi ci ha sommato un pezzetto di elettori di Forza Italia che non lo voterebbero mai alle elezioni alle politiche. E quindi lui dentro di sé è morto dentro. Ieri non ha avuto la grandezza della tragedia, ha fatto questo discorso brodino, un po' una specie di telenovela sembrava, no? Sai quando dici vedi la lacrimuccia, è piaciuto molto, ma senti che non c'è dramma. Ma i giornali al 90% hanno scommesso su sto brodo. Esatto, dai, esatto. È anche il funerale dell'informazione italiana, tu che ci hai parlato quando lui ha fatto la battutella da guappo, cioè, lo sai, lui no, è no, così. Io lo so, piace alla gente che io piace, mi auguro che molti direttori che riflettano, però sai com'è, non devo spiegarteli, e si cospargano il capo di cenere, qua so che lo posso dire perché la versione di Oscar non è impomatata. Esatto. Questi hanno scommesso su un brocco e il popolo è andato dall'altra parte. Forse i grandi commentoni, i grandi opinionistoni dovranno farci una domanda, che il 60% del popolo, con qualunque minaccia, crolleranno le borse, arriveranno le cavallette. Si vede che la realtà è un po' un'altra. Sentiamo rapidamente, grazie Luca, intanto qualcuno di voi che ci chiama. Marco da Monza, Marco prego. Sì, buonasera, innanzitutto complimenti per la trasmissione. Poi volevo dire che comunque un dato importante è che moltissimi giovani hanno votato no. Ah sì. E questa è una cosa che dovrebbe far riflettere Renzi. Il problema è che secondo me a monte sta tutto, perché io ho votato sì, ma ho votato sì non per il merito, non tanto per il merito della riforma, che sinceramente non mi è stata neanche spiegata bene, me lo sono dovuto andare a studiare io. Bensì. Ma ho votato sì per un unico motivo, che ho paura davvero adesso che anche questa volta questa benedetta legge elettorale non si cambia. E questa è davvero l'unica paura che ho. Vabbè, però guardi che è del tutto indipendente, perché tanto la Consulta si sarebbe espressa comunque sulla legge elettorale. Questa è la mia opinione, quindi io non sto giudicando il suo voto. Però voglio dire che i giovani non lo votino. Ma scusi, le politiche, avete visto anche col Jobs Act meno occupati i giovani? Se lo dicono i numeri, lo dice l'Istat, non lo dice Giannino. Non vedo perché i giovani non dovrebbero capire, cioè, purtroppo per me e per questo paese è così. Del resto, perdonate, gli 80 euro ai 26, fino a coloro che avevano 26.000 euro lordi di reddito, ma chi però è incapiente ed è povero davvero? Niente. Oh, ragazzi, lo dico io che sono liberista mercatista, però non ve lo dico oggi per commentare. Io sul merito me lo sentite dire da anni. Dicevano che rompevo i coglioni alle misure del governo. Rompevo i coglioni. Però poi alla fine, no, la gente non è stupida. Alessandro da Savona, come la pensa Alessandro? Buonasera, ma secondo me il problema che più poteva essere sentito era quello finanziario. Mi collego all'introduzione riguardo Montepaschi. Sì. A mio avviso sui soldi non c'è politica che tenga. Se Montepaschi profittevole adesso, non lo era a gennaio dell'anno scorso. Per lo stesso motivo Unicredit è passato da non richiedere aumenti di capitale a chiederne 5, 8, 10, 13 e gli ultimi scenari davano 20. Bravo. Cioè, quando ci sono le banche non si capisce cosa c'è dentro e che cosa si può fare con una volta avuto aumenti. Purtroppo l'audio è di pessima qualità, però bravo Alessandro, il problema delle banche da ricapitalizzare in Italia non c'entra un piffero con la politica, c'entra con l'atteggiamento dei regolatori un po' troppo collusi e c'entra col fatto che però adesso li abbiamo persi questi sei mesi su MPS. Io mi auguro comunque una chiusura positiva, le notizie che arrivano indiscrete dicono che potrebbe esserci da parte di alcuni fondi realizzato ieri una disponibilità vera. Vediamo, questo come sapete Radio 24 vi terrà molto ben informati. Grazie a tutti coloro che non abbiamo avuto tempo per mandare in onda, grazie a Luca Tellesi, appuntamento con me Alessandro Mina domani alle 8:20, attenti alle 2.